dannose innanzitutto per i lavoratori che le praticano oltre che per i cittadini e quindi spero che i problemi possano trovare una soluzione attraverso il dialogo, non danneggiando gli utenti.